una vera una boscia, Rino, Torto G, e una vera and MC, originale punisse, Anger no way, Anger no way, e apre le mo. Se nasconde sotto tutti i fronte buone sonne e in giro tu le vide vite senza pisce, c'è te non un problema se non to dice dite in da una situazione brutta cresce che tu sta pulsazione succhie occhie che piangene rompiangene prima s'arrangene e poi s'arraggene tanto che è massa cu frai allora fatti più da che non se potre sta musicalità che Rino ti dà si da stu calore come salo con va. Ma proprio è nudo un mondo che possa per un giorno portarti via da me. E non c'è stacchi un nudo, ma proprio è nudo un mondo che possa per un giorno portarti via da me. Tino, tino, tino, tino, da do den, un flow che mo do sten, un rit che mo ten. Sangue no bang bang, no sparda gang gang, da rende da stand stand. Com'è che quando fico sconto picchia? Come di mio a me che gli modo diga? E non me la smetto, così mal che vica. Ma picchinda, dagli una vinda. Ma picchinda, ya tu non sinda, ye vin. A cire doninda, mina la yinda, io uso la lingua, mezza la tinta. Ya tu c'è vinta e muovo la cinza. Ya tu so gente, dicio casini. Non just stack you.